Charles Edward Brown Sicard, nato nelle isole Mauritius nel 1817 e morto in Francia nel 1894, ha un posto di rilievo nella storia dell'endocrinologia, perché sostenne esplicitamente la tesi che ogni tessuto ghiandolare fornisca l'apporto di una secrezione al sangue. L'idea della secrezione lo avvinse a tal punto che nel 1858 pubblicò un dotto articolo in cui sosteneva che le secrezioni dei nervi di un ano irritato producessero un mutamento nella secrezione gastrica, il che era come dire che a chi brucia il sedere non spetta una buona digestione. Su questa base propose una rivoluzione del paradigma terapeutico consistente nell'approntare soltanto medicine ricavate dai vari tessuti dell'organismo medesimo. Coniugando l'amore per la scienza alla consapevolezza del proprio declino fisico, Brown Sicard prese ad iniettarsi estratti di testicolo di cane per consegnare prima all'umanità e poi a se stesso il dono dell'eterna giovinezza, ma come già era accaduto nel 1492 al Papa Innocenzo VIII, dopo essersi bevuto il sangue di tre bei giovani, ci rimise la pelle. Ma come accadde peraltro anche ai papi, non tutto il suo credito. L'idea delle virtù del testicolo contro la senescenza infatti venne ripresa e sviluppata intorno al 1920 da Serge Voronoff, chirurgo e biologo russo trasferitosi in Francia nel 1897. Dopo decine di esperimenti infruttuosi, la fortuna gli arrise allorquando, sotto anestesia locale, innestò i testicoli di una grande scimmia cinocefala in Anatole France, proprio nel grande scrittore francese. 61enne, sembra che presentasse l'intero quadro sintomatologico della senilità precoce: guance flosce, viso rugoso, occhi spenti dalla cornea cerchiata e soprattutto un'ormai decennale mancanza di erezioni. 23 giorni dopo, a quanto riferiscono le cronache, 23 giorni dopo Anatole France sgambettava vispo e sprizzava testosterone da tutti i pori, facendo al contempo la sfortuna delle scimmie maschio del circondario e la fortuna del Voronoff, che con i quattrini dei facoltosi clienti anziani che accorrevano a lui si comprò il castello Grimaldi di Mentone e in Riviera, dove morì nel 1951, nonostante avesse dato appuntamento a tutti per il 2000, confidando forse eccessivamente nei propri ritrovati terapeutici. La povera zia Ines era nota fra i parenti per l'amorevole cura con cui provvedeva alla manutenzione morale e formale della tomba di zio Manlio. Sotto quello sguardo mai particolarmente brillante che fu di mio zio, mai mancavano quei più bei fiori cui l'acqua veniva cambiata spesso e mai nel fazzolettino di terra potevano crescere le erbacce. Si può dire che non passasse giorno senza che labbra sommesse non pronunciassero una preghierina per il caro estinto o non gli chiedessero un piccolo consiglio, non fosse altro che per sentire la sua opinione in merito all'eventuale acquisto di un cappellino nuovo. Mia zia era così. Era così fino a un certo giorno. Cioè fino al giorno in cui nella pensione dove alloggiava serena e dimentica praticamente di tutto, tranne che della propria vedovanza e di quel canovaccio del proprio contegno che invece sapeva a memoria, fino al giorno in cui al tavolo vicino prese posto lui. Lui aveva qualcosa come 97 anni, ma dovette apparire a mia zia come appena uscito dal laboratorio Voronoff. Fatto sta che presto sul ritratto di mio zio al Camposanto si formò una patina di opacità che ne rendeva arduo il riconoscimento, che le erbacce presero a crescere rigogliose e che nei vasi corrosi dall'umidità stagnavano acqua e residui marcescenti di ciò che un tempo era stato un fiore. I cappellini zia Ines prese a rinnovarli senza bisogno di consigli, e quanto alle preghiere si dovette render conto che la buon'anima, almeno in rapporto ai peccati commessi a lei noti, ne aveva avuto una razione ormai sufficiente. Ora che questa delicata vicenda d'amore senile si è conclusa, quando solo frequentando il paradiso si rischia di incappare mia zia, me la riporta in mente la narrazione televisiva che propaganda l'uso e l'abuso dei jeans rifle. Perché? Perché l'inizio avrebbe potuto essere quello. Vecchia signora al cimitero porta i fiori al caro estinto. È premurosa e sofferente quanto occorre, ma ciò nonostante le tocca accorgersi di essere osservata. Osservata, sì. Non sarà un vecchio porco, sarà pure un premuroso e sofferente vedovo della tomba accanto, ma lei, la nostra vecchina, non lo degna di uno sguardo di scambio e tira dritto per il suo sentiero sassoso. Tuttavia, una volta a casa, pur sotto l'ebete sguardo del caro estinto, che com'è come non è, è ritratto in una posa a dir poco squisitamente idiota, l'inconsolabile vecchina subisce una rapida metamorfosi. Butta via l'acqua insieme alla dentiera, libera il canarino dalla gabbia e soprattutto si disfa delle gramaglie e si infila in uno stretto paio di jeans, dal cui interno prende a sculettare come una pin-up con 40 di febbre da sabato sera. Ha un improvviso bisogno di aria aperta e di primavera. Esce, ed ecco che alla porta, trasformatosi in una specie di Fonzi della Baggina, c'è il vedovo della galeotta tomba accanto. È sulla moto di ordinanza e ovviamente veste ginseria da capo a piedi. Happy days, il ritorno 70 anni dopo. È l'edizione più economica e meno cruenta delle cure di Brown, Secard e di Voronoff. Il semplice passaggio dai testicoli ai pantaloni rappresenta quel minimo slittamento ideologico che, invece di esaltare il contenuto, esalta il contenitore. There she was, just a walking down the street singing.